perché volevamo approfittare della presenza di un compagno che ha parlato dal palco di Renoiz, della campagna, in particolare per Santiago Maldonado, un compagno desaparecido in Argentina durante le mobilitazioni a sostegno del popolo Mapuche, e non essendo riusciti insomma a far ascoltare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici tutto il tuo intervento, volevamo un po' approfondire questa vicenda. Ne abbiamo già parlato alle microfoni della radio, però possiamo immaginare che ancora molti vogliono capire, no, qualcosa di quello che sta accadendo al confine tra Argentina e Cile, in particolare al popolo Mapuche, ma soprattutto quelli che sono gli interessi di una grande multinazionale come Benetton, che di fatto viene affiancata da due stati che reprimono e rendono impossibile l'esistenza e la vita di centinaia di migliaia di persone. Buonasera a tutti e tutte. Sì, sono Eddie, un compagno comunque della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche. Sì, oggi siamo venuti qua sul palco del Parco Schuster in ricordo di Renato, e per comunque sia per ribadire ancora una volta la nostra campagna di solidarietà comunque sia per Santiago Maldonado, comunque un ragazzo argentino che è stato sequestrato dallo Stato cileno, perché noi sappiamo che è così, tutti lo sanno che è così, ci sono le evidenze che è stato così poche settimane fa, e che tuttora non è comparso comunque, e in tutto il mondo si sono avviate delle campagne comunque, delle azioni in solidarietà, e abbiamo consegnato delle lettere alle ambasciate di tutto il mondo, ci siamo organizzati e attivati per fare qualcosa comunque anche lontani dall'Argentina, perché anche se pochi lo sanno, comunque sia questo successo quando in un'irruzione della polizia argentina dentro una comunità Mapuche nel pull-off di Cushamen, dove ovviamente Benetton ha le sue terre, comunque le sue terre usurpate al popolo Mapuche, e di conseguenza lui è stato sequestrato e portato in una camionetta della gendarmeria argentina, e sono stati nel commissariato, insomma nel commissariato di zona vicino alla comunità, sono state viste delle tracce di sangue, dei suoi capelli, comunque sia, però tuttora la polizia continua a negare, il ministro, il governo continua a negare una sua presenza, ma noi sappiamo, comunque sia, sanno tutti che lui è stato sequestrato dallo Stato. Un altro punto è quello comunque sia di ricordare sempre che Benetton tuttora continua a invadere le terre del popolo Mapuche, perché gli accordi che loro fanno con lo Stato argentino, cioè sono accordi sempre tra persone ricche, non tra persone che vivono dentro la terra, non possono appropriarsi di una terra che non gli appartiene per fare ovviamente i suoi affari. In quelle terre ovviamente si stanno accadendo molte cose, molte multinazionali, molti marchi grossi si stanno succedendo per prendere le terre, per costruire centrali idroelettriche, per fare altre grandi opere che devastano il territorio, e soprattutto che mettono da parte i diritti umani, i diritti delle persone che vivono già in quelle terre da più di 500 anni, che hanno resistito il colonialismo, hanno resistito il capitalismo, hanno resistito tutte le devastazioni che hanno attraversato quei territori. Cioè, anzi vale la pena ricordare che oltre a Benetton ci sono North Face, Arroc e tante altre marche. Noi come rete, insomma, e come gruppo di persone che ci siamo organizzati, ci siamo comunque sia attivati sulla campagna di boicottaggio contro la Benetton, che sappiamo che anche a Roma già era stata avviata negli anni 90, e questa cosa comunque sia, io purtroppo sono molto piccolo, quindi non so, poi essendo immigrato pochi anni fa, quindi non, non ho memoria di questa cosa, però noi vogliamo portare avanti questa lotta contro questa multinazionale italiana, ma soprattutto in questo momento che è successa una cosa del genere, perché così come se lo sono portati via non lo rivogliamo tra di noi. Senti, ti faccio un'altra domanda che diciamo è solo perché ho approfitto che ci sei tu qui in questi giorni. Stanno succedendo anche altre cose in altri paesi del Sud America. Prima ci parlavi appunto delle mobilitazioni in Perù, dello sciopero insomma degli insegnanti. Io credo che nonostante tutto, diciamo, nonostante la repressione, nonostante il fatto che ancora purtroppo diversi governi in Sud America, nell'America del Sud, sono fortemente legati anche agli interessi delle multinazionali, penso a quello del governo messicano, al fatto che si costruiscano le fabbriche in zone franche, no? Tu parlavi della North Face, dovremmo ricordarcelo quando andiamo a comprarci i vestiti, esattamente, no? Esattamente. Che cosa vuol dire? Ecco, insomma, credo che però ci sia anche di fronte un movimento molto molto forte che è capace anche di rispondere, no? Con la solidarietà, con le relazioni anche internazionali, e questa campagna dal mio punto di vista ne è anche un esempio. Sì, guarda, comunque sia la solidarietà che si riesce a portare sempre da questo lato del mondo non è invano, perché comunque sia molte, anzi troppe persone non conoscono la realtà di lotta che c'è in Sud America, anche se molti ne parlano, ma pochi capiscono qual è la vera realtà. I popoli originari, i popoli indigeni, in questo momento sono vittime del capitalismo di Stato, e purtroppo, e questo proprio mi fa male a dirlo, anche gli stessi immigrati sudamericani, latinoamericani ignorano oppure mettono da parte queste robe, perché comunque sia loro non si trovano più da quelle parti, quindi non dico tutti ma gran parte. Ecco perché noi vorremmo per prima cosa diffondere tutto quello che succede, proprio senza filtro, senza passare dai media, dalla TV, comunque sia da tutti quei mezzi corrotti dai stati del mondo, e ovviamente cercare di creare qualcosa come lei, questa campagna di boicottaggio contro la Benetton, come accennavi tu prima, informare per esempio delle mobilitazioni degli insegnanti in Perù, magari, che ne so, ti faccio un altro esempio, c'è un'altra multinazionale italiana che vuole costruire una centrale idroelettrica in una riserva naturale in Bolivia, sì. al nord della Paz, e per questo progetto sgombrerà un sacco di comunità indigene. Però le persone, purtroppo, io ho parlato con tanti boliviani per esempio, non sanno di questa roba. Io penso sempre che cercare di conoscere le cose, le situazioni, crea sempre un qualcosa dentro di noi, perché io per esempio se sento che in qualsiasi parte del mondo c'è qualche ingiustizia, a me un po' me rode dentro, come si dice in Italia, quindi cerco sempre di agire in qualsiasi maniera, come lo è stato con i 43 desaparecidos in Ayotzinapa. Cioè qua a Roma si è mobilitata tanta gente, c'è stato e tuttora c'è tanta solidarietà, perché purtroppo ancora non si sa nulla, e quindi noi vorremmo comunque sia che la gente almeno abbia almeno il coraggio di voler accettare queste cose, di voler accettare la realtà, la verità, poi dopodiché ognuno è libero di agire a modo suo. Senti, se qualcuno vuole sapere di più, c'è un sito, un blog della campagna, insomma, della... Sì, guarda, noi abbiamo un blog, il blog della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, il blog italiano, perché noi abbiamo diciamo, chiamiamolo così, il gruppo italiano, il gruppo tedesco, il gruppo svizzero, il gruppo svedese, e noi abbiamo il blog che si chiama mapucheit.wordpress.com, e qui potrete trovare tutti gli articoli aggiornati, e insomma ogni settimana aggiorniamo gli articoli su tutto quello che succede in territorio mapuche, e tutto tradotto in italiano ovviamente, e tutto il materiale, video, audio, anzi ringrazieremo sempre Radio Onda Rossa che ci concede sempre spazi per poter diffondere, comunicare comunque sia tutto quello che succede in territorio Mapuche, e comunque sia potete rimanere sempre aggiornati su questo blog. Grazie a te comunque. Ok, grazie a voi. Senti, manca a farla apposta, i nostri ascoltatori e ascoltatrici non lo possono vedere, ma la tua maglietta parla chiaro a proposito di quanto dicevamo. Boicotta Coca-Cola. Il gusto dell'ingiustizia sociale, solidarietà con i lavoratori colombiani della Coca-Cola, a proposito di multinazionali. Non so se il compagno qui accanto a me vuole intervenire e dire una cosa anche lui. Sì, no, guarda, noi avevamo una domanda un po' generale, perché tu ci hai raccontato quello che sta succedendo in Sud America e appunto, come dicevano prima anche gli altri, stanno succedendo quelle cose in quel continente negli ultimi periodi. Anche più in generale sappiamo però che le forme d'auto-organizzazione in quel continente hanno un po' dettato una linea di condotta pure per qua in Europa, che guardavamo tutti un po' con gli occhi grandi e illuminati, cioè penso alle esperienze dell'autorecupero delle fabbriche in Argentina, che anche qua a Roma in qualche esempio abbiamo provato a rifare. Cosa possiamo imparare dalla lotta Mapuche e dalla lotta più in generale per i beni comuni, in questo caso la terra che ci raccontavi, contro le multinazionali, secondo te? Cioè, cosa possiamo imparare? Già dal fatto che il popolo Mapuche lotta da più di 520 anni contro tutti, proprio prima contro gli Incas, poi contro gli spagnoli, poi contro tutte le multinazionali che hanno invaso le loro terre, perché comunque sia, secondo la ottica del popolo Mapuche, le terre non appartengono all'uomo, siamo noi che apparteniamo alla terra, e quindi la terra la lavora chi sa sulla terra, chi la vive. Quindi io penso che oltre comunque sia alla lotta Notav che si porta avanti per comunque sia per conservare un territorio, penso che ci siano molte, molte cose da imparare dalla lotta Mapuche. Poi ci sono le questioni più aderenti alla terra, comunque sia la religione Mapuche non è come la religione occidentale, è una cosmovisione andina molto diversa, è un amore al sole, alla terra, comunque sia a tutto quello che ti circonda, ma nella terra però, non nel cemento. Quindi è una visione di vita molto diversa. Penso che già il fatto di avere amore per la terra già sarebbe un qualcosa per cominciare a cambiare, secondo me. Grazie. Dai. Va bene, direi che rimettiamo un po' di musica, visto che stanno suonando dal vivo, e poi ci riaggiorniamo con qualche altra intervista, visto che abbiamo a pochi metri da noi le bestie rare e andremo ad intervistare proprio loro qui. Dai, ci potete ascoltare sugli 87 900, ciao Eddie, e oppure in streaming sul nostro sito www.ondarossa.info oppure su radiosonar.net, che sta mandando anch'essa la diretta. Allora ci riaggiorniamo tra poco con adesso un po' di musica dal palco di Renoiz 2017 con Renato, Odio e Amore.